il freddo, il gelo, aria sporca sulla pelle e le parole che fanno male, ma so che ti addormenterei. Questa pioggia che hai pregato ti portasse via questa pioggia sporca che mi bagna il viso e brucia gli occhi che riflettono la nostra vita.